Capitolo 50. Finita la lettura, non avevo ragione di nascondere a Frederick Lawrence la mia gioia e la mia speranza, poiché non c'era nulla nei miei sentimenti di cui pensassi di dovermi vergognare. Non provavo gioia se non quella che sua sorella fosse finalmente libera da quel penoso e opprimente tormento. Non nutrivo speranze se non quella che potesse iniziare a riprendersi, concedersi il tempo di riposare serenamente per tutto il resto della sua vita. Compiangevo il suo povero marito, sinceramente, pur nella certezza che si fosse comunque cercato ogni briciola di quella sofferenza, oltre a essersela per giunta meritata. Ed ero dispiaciuto che lei si sentisse tanto triste, ma anche preoccupato per gli effetti che avrebbero avuto su di lei quelle instancabili premure nei confronti del malato, le veglie interminabili, il continuo isolamento accanto a un moribondo. Sicuramente non doveva aver scritto neppure la metà delle sofferenze che aveva sopportato lei. Andrete, Lawrence, non è vero? Certo, subito. Ottimo, allora vi lascio a prepararvi per la partenza. Ah, è tutto già pronto, me ne sono occupato prima che arrivaste e mentre eravate preso dalla lettura, la carrozza sta arrivando proprio ora a prendermi. Apprezzai tacitamente il suo zelo e lo salutai. Stringendomi la mano mi scrutò. Non saprei dire cosa cercasse sul mio volto, ma di sicuro non vi trovò altro che la serietà consona alla circostanza e forse una lieve traccia di risentimento nei suoi confronti dovuta a ciò che pensavo stesse passandogli per la testa in quel momento. Avevo forse dimenticato i miei sogni, il mio amore appassionato, la mia incrollabile speranza. Tornarci sopra proprio ora sarebbe parso sacrilego, ma di certo non li avevo dimenticati. Il pensiero di quei miei sogni fallaci e vani oscurò e appesantì il tragitto a cavallo fino a casa. La signora Huntington era finalmente libera e pensare a lei non era più un peccato, ma lei pensava a me. Magari in quel preciso momento no, né potevo aspettarmi che lo facesse, ma in seguito lo avrebbe fatto. Nelle lettere che si scambiava con il nostro comune amico, come lei stessa lo aveva definito, aveva accennato a me solo una volta e solo per necessità. Questo mi lasciava pensare che mi avesse già dimenticato. Oppure che per senso del dovere stesse cercando di dimenticarmi. Oppure, eventualità ancora più terribile, in seguito a tutte le cose spaventose che aveva visto e sentito, alla riconciliazione finale con quell'uomo che aveva tanto amato e alle terribili sofferenze di quest'ultimo, ogni traccia del suo fugace amore per me era scomparsa dalla sua mente. E allora si sarebbe ripresa, avrebbe riacquistato la salute, la serenità e persino l'allegria, ma non più quei sentimenti che avrebbe anzi guardato come sciocche fantasie, come illusioni. Considerando anche che nessuno era lì a ricordarle di me e che non avevo modo di farle presente quanto fosse salda la mia costanza, poiché eravamo troppo lontani. E la discrezione mi imponeva di non scriverle prima che fossero passati dei mesi. Sarei riuscito a conquistare la fiducia di suo fratello e rompere lo strato di ghiaccio della sua riservatezza? Magari avrebbe disapprovato i miei sentimenti, come aveva fatto anche prima. Forse mi giudicava troppo povero, di famiglia troppo umile per poter aspirare a sua sorella. In effetti era un bell'ostacolo quello, perché c'era una significativa differenza di rango e situazione tra la signora Huntington, proprietaria unica di Grassdale Manor, e la signora Graham, artista e inquilina di Wildfell Hall. Se avessi chiesto la mano della proprietaria di Grassdale Manor, la società tutta, i suoi amici e persino lei l'avrebbero giudicato un gesto quantomeno presuntuoso. Avrei pagato questo prezzo volentieri, se fossi stato certo che mi amava, ma in caso contrario. E poi suo marito, nel suo grande egoismo, poteva aver lasciato scritte delle restrizioni circa un suo eventuale secondo matrimonio. Insomma, come vedi, avevo di che disperarmi. Attesi con ansia il ritorno di Lawrence da Grassdale, un'ansia che cresceva con il passare dei giorni. Rimase lontano 10 o 12 giorni, un bene davvero che si fermasse a lungo per stare accanto a sua sorella, ma certo avrebbe potuto scrivermi per darmi notizie o dirmi quando aveva intenzione di tornare, avrebbe dovuto indovinare quanto fossi in pena per lei e angosciato per il mio futuro. Quando tornò, si limitò a dirmi che l'aveva trovata esausta, sfinita dagli sforzi compiuti per stare accanto a quell'uomo che le aveva rovinato la vita e per poco non l'aveva trascinata con sé nella tomba. Mi disse che era ancora molto provata dal modo in cui quella triste storia era finita, ma non aggiunse una parola che mi riguardasse. Non mi accennò al fatto che lei mi avesse nominato, né io glielo domandai direttamente, poiché ero convinto che Lawrence fosse del tutto contrario al mio attaccamento per Helen. Notai che si aspettava che gli facessi altre domande e, geloso e orgoglioso come mi sentivo in quel momento, intuii che dovesse paventare l'incombere del mio interrogatorio. E mi parve ugualmente contento e stupito che non arrivasse. Ovviamente mi sentivo furioso, ma l'orgoglio mi impose di mantenermi all'apparenza composto per tutta la durata del nostro incontro. E con il senno di poi sono convinto che sia stato un bene, poiché sarebbe apparso quantomeno assurdo se mi fossi messo a litigare con lui in un momento del genere. È necessario che riconosca qui di avergli fatto un torto allora. Io gli piacevo, ma riteneva che un matrimonio tra la signora Huntington e me sarebbe stato quel che la società definiva una mésalliance, e lui non era certo il tipo che amava sfidare l'etichetta, tanto più in una circostanza del genere, dato che il disprezzo altrui gli sarebbe pesato molto di più se fosse stato rivolto alla sorella che a lui. Se avesse giudicato la nostra unione fondamentale per la felicità di entrambi, o anche di uno solo di noi, e se avesse saputo quanto appassionatamente l'amavo, si sarebbe comportato in modo ben diverso. Invece, vedendomi tanto tranquillo, non si sognò neppure di turbare la mia posizione. Così, pur non facendo attivamente nulla per opporsi apertamente alla nostra unione, nemmeno si adoperava per favorirla. Anzi, avrebbe preso più volentieri le parti della prudenza, aiutandoci a dimenticarci l'uno dell'altra, che quelle dell'amore, incoraggiando i nostri sentimenti. E giustamente, dirai tu. In effetti, sì, ma in quel momento non ero nelle condizioni di considerare la faccenda con la stessa moderazione, e dopo aver scambiato ancora qualche parola, me ne andai, ferito nell'orgoglio, offeso nell'amicizia, oltre che angosciato all'idea che lei mi avesse davvero dimenticato. E in ansia al pensiero che la donna che amavo fosse tanto lontana, sola e tormentata da una salute cagionevole e da una grande tristezza, senza che io avessi modo di portarle conforto né farle arrivare un messaggio di solidarietà da parte di Lawrence, poiché, date le circostanze, era ormai fuori questione. Cosa potevo fare quindi? Aspettare di capire se lei avrebbe fatto qualche passo, cosa che non avrebbe chiaramente fatto se non attraverso suo fratello? Con la possibilità poi che lui me lo tenesse nascosto, portando lei a pensare, che amara visione, che fossi ormai indifferente o così cambiato da non risponderle. O magari lui le aveva già fatto capire che l'avevo dimenticata. Quindi avrei aspettato che fossero trascorsi i 6 mesi che avevamo stabilito, ossia la fine di febbraio, e poi le avrei scritto, ricordandole che lei stessa mi aveva dato il permesso di farlo, una volta superato quel periodo di tempo. Ne avrei approfittato per esprimerle tutto il mio dispiacere per quanto aveva affrontato di recente, la mia ammirazione per la giusta condotta che aveva tenuto e la speranza che potesse finalmente godere di quella pace e quella felicità che tanto a lungo le erano state negate e che nessuna persona onesta poteva dire di meritare più di lei. Avrei aggiunto qualche riga di affetto per il mio piccolo amico, Arthur, augurandomi che non mi avesse dimenticato, e chissà, magari altri accenni al passato, ai piacevoli momenti che avevamo trascorso insieme, e ai ricordi che ne serbavo, sale e consolazione della mia vita, e alla speranza che i tristi momenti che aveva passato non mi avessero del tutto esiliato dalla sua mente. Se non mi avesse risposto, allora non le avrei scritto più, ma se invece l'avesse fatto, ed ero sicuro che in un modo o nell'altro l'avrebbe fatto, avrei basato sulla sua risposta qualsiasi mia decisione futura. 10 settimane di attesa, in quell'incertezza, erano tante, ma dovevo farmi coraggio. Nel frattempo avrei continuato a frequentare Lawrence e, anche se non tanto spesso come prima, avrei continuato a chiedergli della sorella, se aveva sue notizie, come stava e nient'altro. Così feci. E ottenevo puntualmente risposte limitate alla domanda. Stava come sempre, non si lamentava, ma dal tono della lettera si capiva che doveva sentirsi depressa. Poi stava meglio, e infine stava bene, indaffarata, tra l'educazione del figlio e la gestione della proprietà e degli affari del suo defunto marito. Quel bastardo non mi aveva detto cosa ne sarebbe stato della proprietà dopo la morte di Huntington. Se nel momento in cui era morto ne fosse ancora l'intestatario oppure no. Ma non volli chiederlo direttamente, per paura che potesse giudicare la mia domanda interessata. Non mi proponeva mai di leggere le lettere che lei gli spediva, né io glielo chiedevo. Febbraio finalmente era vicino. Dicembre, grazie al cielo, era passato e gennaio era quasi finito. Ancora qualche settimana, e poi la mia straziante attesa sarebbe finita nella conferma della disperazione o in una rinnovata speranza. Ma purtroppo, proprio in quel momento, le toccò subire un nuovo colpo con la morte di suo zio, un vecchio degno di pochi meriti, onestamente, ma che aveva sempre dimostrato molta più tenerezza per lei che per chiunque altro e che lei aveva sempre considerato come un padre. Quando morì, era accanto a lui. Aveva raggiunto la zia per accudirlo nell'ultima fase della malattia. Lawrence si recò a Staningley per partecipare al funerale e quando tornò mi riferì che la sorella si sarebbe fermata ancora lì per confortare la zia. Pessime notizie per me, dato che in quel modo non potevo scriverle. Non avevo l'indirizzo e non volevo chiederlo a lui. Le settimane passavano e ogni volta che domandavo di lei era ancora a Staningley. «Dove si trova Staningley?» chiesi infine. «Nell'Hampshire», rispose semplicemente lui. Il suo tono mi sembrò così freddo che trovai impossibile chiedergli ulteriori dettagli. «Quando rientrerà a Grassdale?» «Non saprei». «Dannazione!» «Perché Markham?» mi domandò lui sinceramente sorpreso. Non mi degnai di rispondergli se non con uno sguardo di tale sprezzo che fu costretto a distogliere lo sguardo di lato e abbassarlo sul tappeto con un mezzo sorriso, mi parve, in parte pensieroso e in parte divertito. Poi cambiò argomento cercando di coinvolgermi in una conversazione leggera e amichevole, ma io ero troppo nervoso per lasciarmi distrarre e di lì a poco mi congedai. Lawrence e io non siamo mai riusciti ad andare d'accordo alla fine perché tutti e due eravamo troppo permalosi. Questa ipersensibilità anche alle offese involontarie è un vero problema, Holford. Ormai non ne sono più schiavo, come avrai visto. Sono diventato più allegro e più saggio, più indulgente con me stesso e con il prossimo, e riesco persino a non prendere più troppo sul serio né Lawrence né te. Trascorsi diverse settimane senza rivedere il mio compagno, in parte per caso e in parte per deliberata trascuratezza da parte mia, perché cominciava a starmi antipatico. La volta successiva ci incontrammo perché venne a cercarmi lui stesso nel campo in cui stavo iniziando a mietere il fieno. «Non vi vedo da parecchio tempo, Markham», mi disse dopo i primi convenevoli. «Avete deciso di non passare più a trovarmi?» «Ah, sono venuto una volta, in effetti, ma eravate fuori». «Oh, sì, mi è dispiaciuto. Ma pensavo che sareste tornato. Ecco, ora sono venuto io ed eravate fuori voi, come al solito, altrimenti verrei a farvi visita più spesso. Tuttavia ero determinato a vedervi in questo caso, quindi ho lasciato il cavallo dietro lo steccato e ho attraversato il campo per parlarvi. Sto per lasciare Woodford e potrebbe passare un mese o due prima di rivederci». «Ah sì, e dove andate?» «Prima a Grassdale», disse con un sorriso che avrebbe preferito soffocare se solo avesse potuto. «A Grassdale? È tornata lì, allora?» «Sì, ma tra un paio di giorni partirà di nuovo. Andrà con la signora Maxwell a godere un po' di aria di mare e io le accompagnerò». Quel luogo all'epoca era una stazione balneare tranquilla, mentre oggigiorno è molto più frequentata. Lawrence si aspettava forse che gli chiedessi, data la situazione, di consegnare un messaggio alla sorella da parte mia, e credo che avrebbe anche accettato di farlo senza fare troppe obiezioni se avessi avuto la lucidità di chiederglielo. Ma certo, non fu lui a propormelo. Forse per timore che gli rispondessi che non mi sembrava il caso. Insomma, alla fine non glielo chiesi e solo dopo che se ne fu andato realizzai di aver davvero perso una buona occasione, pentendomi della mia stupidità e del mio orgoglio, ma ormai era troppo tardi. Tornò che era passata la metà di agosto. Mentre era al mare mi scrisse due o tre volte, ma le sue lettere erano tutte insoddisfacenti per me. Mi raccontava sciocchezze di cui non mi importava nulla, o divagava in fantasie e meditazioni che in quel momento mi erano altrettanto sgradite, senza quasi mai nominare la sorella e parlando poco anche di sé. Aspettavo con ansia che rientrasse nella speranza di ricavare qualcosa di più a voce. Non volevo comunque scriverle mentre si trovava con lui e con sua zia, la quale senza dubbio sarebbe stata ancor più contraria del fratello alla mia presuntuosa aspirazione. Avrei atteso che tornasse alla tranquillità e al silenzio di casa sua. Quando tornò, Lawrence si dimostrò estremamente riservato sull'argomento che più mi stava a cuore, ma mi disse che la sorella aveva tratto grande beneficio dal soggiorno al mare, che il piccolo stava bene e che purtroppo erano entrambi tornati a Stanningley, dove rimasero per quasi 3 mesi. Non voglio però annoiarti con il racconto delle mie delusioni, delle speranze, del mio fluttuare tra un segreto sconforto e deboli sogni, del mio oscillare tra la decisione di rinunciare a tutto e quella di perseverare, invece, tra quella di lanciarmi in un gesto audace e quella di lasciar tutto com'era, aspettando con pazienza che arrivasse il momento giusto. Mi occuperò invece di alcuni personaggi cui ho accennato nel corso del mio racconto e che potrei non aver più occasione di nominare in seguito. Qualche tempo prima che il signor Huntington morisse, Lady Loborough scappò sul continente con un altro amante da cui si separò in seguito a un litigio, dopo essersi dati per qualche tempo alle più sfrenate trasgressioni. Le sue follie durarono ancora per una stagione, ma poi, con il passare del tempo, finirono i soldi e si trovò piena di debiti e in grave difficoltà. Disonorata e infelice, a quanto pare morì sola e in disgrazia. Tuttavia, potrebbero essere solo delle voci e potrebbe essere invece ancora viva, per quel che ne so io, o che ne sanno i suoi amici e parenti, dato che da molti anni ormai se ne sono perse le tracce e qualcuno, in effetti, potendo, l'avrebbe dimenticata volentieri. Dopo questa seconda vergogna, suo marito chiese e ottenne il divorzio e qualche tempo dopo si risposò. E fece bene, poiché per quanto cupo potesse apparire, Lord Loborough non era affatto tagliato per la vita da scapolo. Gli interessi, le ambizioni, gli affari o gli amici, sempre che ne avesse, non sarebbero bastati a compensare l'assenza del calore domestico e delle sue comodità. Certo aveva un figlio e una figlia, ma gli ricordavano troppo la madre, purtroppo, e inoltre la piccola Annabella lo angosciava moltissimo. Si sforzava di trattarla con sentimento paterno, di non odiarla e di provare tenerezza per lei, ricambiando il suo affetto innocente, ma dentro di sé si consumava nell'autocondanna per i sentimenti che covava segretamente nei confronti di quella creatura. Le dure battaglie che ingaggiava contro i peggiori impulsi della sua natura, che non era generosa, vagamente intuite da chi gli stava accanto, erano note solo a lui e a Dio, così come la costante tentazione di riprendere il vizio giovanile e cercarvi conforto per le disgrazie subite e l'attuale infelicità, condannato com'era a una vita senza gioia, cedendo ancora una volta a quel subdolo nemico della salute, del suo discernimento e della virtù che già in passato l'aveva mortificato e reso schiavo. La sua seconda moglie era completamente diversa dalla prima. Alcuni si meravigliarono dei suoi gusti, altri arrivarono a ridicolizzarli, ma si dimostrarono in questo ancor più folli di lui. La signora era sua coetanea, aveva cioè tra i 30 e i 40 anni. Ho sentito dire che non fosse una grande bellezza e che non brillasse nemmeno per ricchezza, intelligenza o altre simili virtù, se non che era dotata di buon senso, integrità, compassione, dolcezza e allegria, qualità queste che, come potrà immaginare, ne facevano un'ottima madre per i bambini e una compagna perfetta per lui. Abituato com'era a pensar male di sé, la giudicava troppo buona per meritarla. Si meravigliava che la provvidenza fosse stata tanto generosa da concedergli un simile privilegio e si stupiva che lei l'avesse scelto preferendolo ad altri. Così fece del suo meglio per sdebitarsi e riuscì a renderla, allora come oggi, una delle mogli più felici e amorevoli di tutta l'Inghilterra. E chi ha qualcosa da ridire sul buon gusto dell'uno o dell'altra, si domandi piuttosto se le sue scelte personali gli hanno procurato anche solo metà della loro felicità e un affetto durevole e sincero anche solo la metà del loro. Se ti interessa sapere com'è finita quella canaglia di Grimsby, sappi che continuò imperterrito sulla strada del vizio, abbandonandosi a un abisso sempre più fondo di trasgressioni e follie, frequentando solo i membri peggiori del suo club e la feccia della società, per la fortuna del resto del mondo, e alla fine morì nel corso di una rissa tra ubriachi, ucciso da qualcuno dei suoi compagni scellerati che a quanto pare aveva imbrogliato al gioco. Il signor Hattersley non scordò più la promessa di allontanarsi da tutti quanti loro e vivere da buon cristiano. La malattia e la morte del suo amico Huntington poi lo colpirono talmente e tanto seriamente, anche in quanto monito circa le conseguenze della loro condotta passata, che non gli servì mai una seconda lezione. Evitò le tentazioni della città e restò a vivere in campagna, dedicandosi all'agricoltura, all'allevamento dei cavalli e del bestiame, e di tanto in tanto alla caccia e alla compagnia degli amici, senz'altro migliori di quelli che aveva avuto da giovane, godendosi la compagnia della moglie, ormai felice e fiduciosa, dei suoi bei figli energici e delle sue belle figlie graziose. Quando il padre banchiere morì, gli lasciò in eredità tutte le sue ricchezze, di cui ha potuto disporre liberamente per realizzare le sue antiche ambizioni. E non serve che sia io a dirti che il signor Ralph Hattersley è famoso in tutta l'Inghilterra per la sua nobile razza di cavalli. Capitolo 51. A questo punto ti racconterò invece di un tranquillo pomeriggio freddo e nuvoloso agli inizi di dicembre. La prima neve era caduta sui campi spogli e sulle strade ghiacciate, ammonticchiandosi nei solchi che le ruote dei carri o le impronte degli uomini e dei cavalli avevano lasciato nel fango, ora secco, che si era accumulato con le piogge del mese precedente. Me lo ricordo bene perché stavo tornando da casa a Millward con niente meno che Eliza al mio fianco. Ero andato a trovare il reverendo e davvero solo per far contenta mia madre, non solo perché Eliza, che un tempo mi sembrava tanto affascinante, mi era ormai antipatica, ma anche perché non perdonavo al vecchio le sue diffamazioni sulla signora Huntington. Malgrado fosse stato costretto a riconoscere di aver sbagliato nel formulare il suo iniziale giudizio su di lei, continuava a dire che la signora aveva comunque sbagliato ad abbandonare il marito, che così facendo era venuta meno ai suoi doveri coniugali e sfidato la provvidenza, esponendosi alla tentazione, e che nulla se non maltrattamenti fisici e non lievi avrebbe giustificato un comportamento del genere. Anzi, in quel caso avrebbe dovuto chiedere alle autorità di metterla in protezione. Ma non era di lui che volevo parlare, tuttavia, quanto di sua figlia Eliza. Stavo giusto per congedarmi quando entrò nella stanza pronta per uscire. Sto venendo a trovare vostra sorella, signor Markham. Se non vi dispiace, vi accompagno a casa. È piacevole passeggiare in compagnia, non siete d'accordo? Sì, se la compagnia è piacevole. Naturalmente, rispose lei maliziosa. Così dicendo, uscimmo insieme. Credete che troverò Rose in casa? Mi domandò, chiudendosi alle spalle il cancello di Linden Car. Ah, penso di sì. Lo spero davvero perché ho qualcosa da raccontarle, sempre che non siate arrivato prima di me. Io? Già, voi lo sapete perché il signor Lawrence è partito? Mi chiese, alzando lo sguardo e aspettando con ansia che le rispondessi. Partito? Domandai a mia volta, e il suo viso si illuminò. Dunque non vi ha detto della sorella? Che cosa della sorella? Chiesi terrorizzato che le fosse capitato qualcosa. Siete arrossito, signor Markham, osservò con una risata offensiva. Non l'avete dimenticata, quindi? Oh, ma fareste meglio a sbrigarvi, dato che giovedì prossimo si sposerà. No, non è vero, Eliza. Mi ritenete una bugiarda, signore? Sicuramente vi hanno mal informata. Dite? E voi siete informato meglio? Credo di sì. E come mai siete diventato così pallido allora? Mi chiese compiaciuta dalla mia reazione. Siete arrabbiato con me per quel che vi ho detto? Sappiate che non ho fatto che riferirvi le cose così come sono state riferite a me. Non posso giurare che siano vere, ma non ho ragione di credere che Sara mi abbia mentito, né che il suo informatore abbia mentito a lei. È questo, infatti, che mi ha detto lei, dopo averlo sentito dal cameriere. La signora Huntington si sposa giovedì e il signor Lawrence è partito per andare al suo matrimonio. Mi ha detto anche come si chiama lo sposo. Però l'ho dimenticato. Forse potete aiutarmi voi a ricordarlo? Era un signore che viveva non lontano da lì, che andava spesso a trovarli e con cui lei era in buoni rapporti. Il signor... santo cielo, il signor Hargrave? Le dissi con un sorriso amaro. Esatto, esclamò, proprio lui. È impossibile, signorina Eliza, disse a quel punto in un tono che la fece sobbalzare. Ebbene, questo è quel che mi hanno detto, mi rispose lei composta. Poi scoppiò a ridere tanto sguaiatamente da farmi infuriare. Non vorrei essere indiscreta, gridò, ma davvero pensavate di sposarla voi? Oh Dio, che peccato! Signor Markham, santo cielo! Ma vi sentite male? Volete che chiami quell'uomo lì? Jacob! La zittì, afferrandole un braccio con tanta forza da farla allontanare con un lieve grido, non so dire se di paura o di dolore. Non parve comunque soddisfatta e, fingendosi sinceramente preoccupata, continuò imperterrita. Come posso aiutarvi? Volete un po' d'acqua, un brandy? Sicuramente qui alla locanda ne avranno e se volete posso andare a prenderlo subito. Fatela finita! Le urlai bruscamente. Per un momento mi sembrò turbata, forse nuovamente spaventata. Sapete bene che non sono scherzi che mi piacciono. Ma io non stavo affatto scherzando. Di sicuro stavate ridendo, però, e non mi piace che si rida di me, le dissi sforzandomi di apparire nuovamente composto e di non dire nulla che non fosse logico e sensato. Vedo che siete di così buon umore, signorina Eliza, che sono certo possiate ben farvi compagnia da sola. Vi lascio andare perché ho da sbrigare alcune commissioni. Buonasera. Così la lasciai, mentre si sforzava di non continuare a ridere di me. E scartai in direzione dei campi, infilandomi nella prima apertura che trovai in mezzo alla siepe. Ero determinato a scoprire la verità e mi avviai a passo sostenuto in direzione di Woodford. Inizialmente la presi più larga, ma appena fui certo che la mia affascinante tormentatrice non potesse più vedermi, tagliai dritto per la campagna come un uccello che sorvola i campi, le stoppie e i sentieri, una siepe dietro l'altra, un recinto dopo l'altro, fino a raggiungere il cancello d'ingresso di casa Lawrence. Prima di quel momento non avevo mai considerato la reale misura del mio amore, l'intensità della mia speranza che mai, neppure nei momenti peggiori, si era spezzata, restando tenacemente salda al pensiero che un giorno lei sarebbe stata mia, o che qualcosa della nostra amicizia e del nostro amore sarebbe rimasto per sempre dentro di lei. Raggiunsi l'ingresso, determinato a interrogare il padrone di casa se l'avessi trovato. Basta rimandare pazientare, dovevo dimenticare ogni formalità e ogni inutile orgoglio e sapere al più presto cosa mi riservava il destino. Il signor Lawrence è in casa? Chiesi al cameriere che mi aprì la porta. No, signore, è partito ieri, mi rispose subito. E dove andava? A Grasdale, signore, non ve l'ha detto? Il mio padrone è molto riservato, immagino che, disse con un insopportabile sorriso di circostanza. Io però me ne andai subito senza stare ad aspettare di sapere cosa immaginava. Non avevo la minima intenzione di lasciare che una persona del genere ridicolizzasse i miei sentimenti. Che fare? Possibile che Helen mi avesse abbandonato per quel tipo? Certo, era possibile che avesse dimenticato me, ma non che avesse deciso di darsi a lui. Ebbene, dovevo sapere. Non avrei comunque saputo dedicarmi a nient'altro, preso com'ero da quell'atroce dubbio in un vortice di gelosia e rabbia. Sarei salito sulla carrozza del mattino, poiché quella della sera era senz'altro già partita, per raggiungere Grassdale il prima possibile e soprattutto prima del matrimonio. Per quale motivo? Perché mi passò per la testa che avrei potuto impedirlo e che anzi, se non l'avessi fatto, l'avremmo rimpianto entrambi per tutta la vita? Cominciavo a pensare che qualcuno le avesse parlato male di me. Forse il fratello. Anzi sì, sicuramente doveva averle detto che ero un'ipocrita, inaffidabile. E avvantaggiandosi a quel punto del suo risentimento e forse anche dell'amara visione del futuro che l'attendeva, l'aveva ingegnosamente e crudelmente convinta a quest'altro matrimonio, così da tenerla al sicuro da me. Se le cose erano davvero andate così e lei si fosse accorta dell'errore compiuto troppo tardi per porvi rimedio, sarebbe stata condannata a una vita profondamente infelice. E io lo stesso. Come rimpiangevo di essermi fatto tanti scrupoli, era tutta colpa mia. No, dovevo vederla e dirle la verità, anche sulla porta della chiesa, se necessario. Qualcuno mi avrebbe preso per pazzo, forse, o per uno sciocco. Lei stessa si sarebbe potuta offendere per la mia impertinenza o dirmi che ero arrivato troppo tardi, ma se invece fossi riuscito a salvarla, se fosse potuta davvero essere mia, era un pensiero troppo esaltante. Con questa speranza nel cuore e lo sprone di queste paure, tornai a casa di corsa per prepararmi a partire. Dissi a mia madre che per via di questioni urgenti e improrogabili che non avevo ora il tempo di spiegarle in dettaglio, dovevo andare all'ultimo grosso villaggio che avrei attraversato lungo il tragitto. La mia grande angoscia e la mia preoccupazione non sfuggirono al suo sguardo materno e mi costò non poca fatica convincerla che non fosse nulla di grave. Quella notte nevicò molto e le carrozze il giorno dopo erano rallentate al punto che credetti di impazzire. Viaggiai per tutta la notte, dato che era mercoledì e il matrimonio sarebbe stato il giovedì mattina. La notte però era lunga e buia, la neve rallentava le ruote, gelava le zampe dei cavalli, gli animali erano molto pigri, i cocchieri sin troppo cauti, i passeggeri insopportabilmente indifferenti alla lentezza del viaggio. Invece di aiutarmi a spronare i cocchieri, se ne stavano lì a guardarmi e ridere della mia impazienza. Uno di loro osò prendermi in giro apertamente, ma lo zittii con un'occhiataccia che gli bastò per tutto il resto del tragitto. Quando alla fine chiesi di prendere io le redini, si opposero tutti. Arrivammo, che era ormai giorno. Scesi davanti a Rosencrown e ordinai subito un passaggio per Grassdale. Non c'erano diligenze disponibili perché l'unica che c'era era rotta. Andrà bene anche un calesse, una carrozza, un carro, qualsiasi cosa, basta che sia in fretta. Un calesse c'era, ma non c'erano cavalli. Ordinai che ne andassero a cercare uno, ma ci stavano mettendo così tanto che alla fine decisi di avviarmi a piedi, chiedendo loro che mi mandassero dietro al mezzo se fosse stato pronto entro un'ora. Presi a camminare, più veloce che potevo. Non distava più di 6 miglia, ma non conoscevo la strada ed ero costretto a fermarmi spesso per chiedere indicazioni ai carrettieri e ai contadini, o entrando direttamente nelle case, poiché c'erano poche persone in giro quella mattina d'inverno, e svegliando i più pelandroni che, avendo poco lavoro da sbrigare e forse anche poco da mangiare e poco fuoco con cui scaldarsi, preferivano restare a letto più a lungo. Non potevo permettermi di preoccuparmi per loro, però, e così tiravo avanti, stanco e disperato com'ero. Non mi raggiunse alcun mezzo, alla fine, quindi avevo fatto bene a non restare lì ad aspettarlo. Mi rammaricai anzi di aver perso fin troppo tempo. Alla fine raggiunsi Grassdale e trovai la piccola chiesa. C'erano davanti diverse carrozze tutte in fila. Avrei capito che si trattava di un matrimonio anche senza le coccarde bianche a ornamento di cavalli e servitù, e senz'altro l'allegro brusio dei curiosi venuti a godersi lo spettacolo. Mi feci strada tra loro, chiedendo affannato e angosciato se la cerimonia fosse iniziata già da tanto. Mi guardarono stupiti. Continuai a farmi largo, sempre più disperato, e avevo quasi raggiunto il cortile antistante la chiesa quando un gruppo di ragazzini di strada, che si erano messi a sbirciare dalle finestre, corsero verso di noi, gridando in dialetto: «È finito, ora escono!» Eliza Millward sarebbe stata felice di vedermi in quel momento. Mi dovetti tenere al cancello, mentre fissavo con ansia la porta per guardare un'ultima volta il mio amore. E per la prima volta quell'odiosa canaglia che me l'aveva rubata, condannandola a una vita infelice, di questo ero sicuro. In fondo, che gioia avrebbe mai potuto trovare con un uomo come lui? Non volevo che la mia presenza lì l'agitasse, in effetti, ma non riuscivo a muovermi. Ecco gli sposi che avanzavano. Lo sposo non lo guardai per niente, ero troppo concentrato su di lei. Un lungo velo copriva per metà la sua bella figura, senza tuttavia nasconderla. Camminava a testa alta, ma con gli occhi rivolti a terra, il collo e il viso delicatamente arrossati, mentre nella trasparenza del velo si indovinavano grappoli di morbidi ricci dorati. Oh, cielo! Non era Helen! Al primo sguardo sussultai, ma certo ero stanco e forse non avevo visto bene. No, non era lei! Era una ragazza più giovane, più esile, più rosea. Molto carina, ma con molta meno nobiltà e profondità d'animo, priva di quel fascino intenso e delicato e di quella grazia unica, capace di soggiogare un cuore, quantomeno il mio, con un solo sguardo. E lo sposo era Frederick Lawrence. Mi asciugai il sudore che mi colava freddo dalla fronte e indietreggiai. Lui però mi vide e, per quanto stravolto dovessi apparirgli, mi riconobbe subito. «Markham, siete voi?» mi domandò, stupito che mi trovassi lì e forse turbato dal mio aspetto selvaggio. «E Lawrence, siete voi?» ebbi la prontezza di rispondergli. Sorrise e arrossì, in parte per orgoglio, in parte per imbarazzo. Aveva certamente ottime ragioni di sentirsi orgoglioso della fanciulla che gli stava di fianco, ma altrettante di sentirsi in imbarazzo per avermi nascosto la sua fortuna tanto a lungo. «Permettetemi di presentarvi mia moglie», disse allora con forzata disinvoltura. «Esther, lui è il signor Markham, il mio amico. Markham, ecco Esther Lawrence, prima signorina Hargrave». Feci un inchino alla sposa e offrii una vigorosa stretta di mano allo sposo. «Perché non mi avete detto nulla?» gli domandai, simulando un rancore che in realtà non provavo affatto, perché ero anzi pazzamente felice dell'errore e sentivo di volergli un gran bene, in virtù di questo e del fatto che mi pareva di avergli fatto un grande torto a pensare quel che avevo pensato. Certo, forse si era comportato male nei miei confronti, ma non fino a quel punto. Nelle ultime 40 ore l'avevo disprezzato con tutto il cuore e potevo reagire a quell'odioso sentimento solo con un traboccante affetto e il desiderio di perdonargli tutto. In effetti, ve l'avevo detto, invece, mi disse con aria in parte colpevole e in parte confusa. Non avete ricevuto la mia lettera? No? Quale? Quella in cui vi dicevo appunto che mi sarei sposato. Non ho mai letto nulla di tutto ciò. Evidentemente vi sarete incrociati lungo la strada, perché secondo i miei calcoli avrebbe dovuto raggiungervi ieri mattina, per quanto devo ammetterlo decisamente all'ultimo momento. Ma come mai siete venuto quindi se non avevate ricevuto questa informazione? E qui fu il mio turno di mostrarmi confuso. La sposa, nel frattempo, che in questo breve tempo era rimasta a schiacciare la neve con un piede, mi venne provvidenzialmente in soccorso, dando un lieve colpo sul braccio del marito e suggerendogli di invitare l'amico a montare in carrozza con loro, dato che non era opportuno restare fermi lì davanti a tutta quella gente e far aspettare oltre gli amici. Con questo freddo, poi, osservò lui angosciato, notando l'abito da sposa leggero e aiutando subito la sua signora a salire in carrozza. «Markham, venite con noi? Andiamo a Parigi, ma possiamo darvi un passaggio dove preferite, tra qui e Dover». «No, grazie. Vi saluto qui e vi auguro di fare buon viaggio. Mi aspetto che vi scusiate a dovere prima o poi, e di ricevere dozzine di lettere prima che ci rivediamo». Lui mi strinse la mano e si accomodò accanto alla moglie. Non era quello il luogo né il momento per dargli troppe spiegazioni, anzi, ci eravamo trattenuti già abbastanza da suscitare la curiosità degli invitati e forse anche la loro impazienza. Sebbene fosse durato tutto molto meno di quanto abbia impiegato ora io a descriverlo e di quanto impiegherai tu a leggerlo. Rimasi accanto alla carrozza e vidi il mio amico raggiante portare un braccio attorno alla vita della sua sposa e lei poggiargli la guancia su una spalla. La felicità, l'amore e la fiducia fatte persona. Mentre il lacchè finiva di chiudere lo sportello e andava a prendere il suo posto dietro, vidi lei sollevare il suo sguardo allegro su di lui e dirgli: «Sicuramente penserai che sono un'insensibile, Frederick, perché tutte le donne piangono in queste occasioni, ma non riuscirei a tirar fuori una lacrima neppure se ne andasse della vita». Lui si limitò a baciarla e a stringerla al petto ancora più forte. «Ma e ora cos'hai, Esther? Stai piangendo davvero?» «Ah, non è niente, no? È che sono così felice, vorrei tanto che la nostra Ellen lo fosse altrettanto». «Che Dio vi benedica per questo augurio», pensai mentre la carrozza si allontanava. Mi era parso che lo sposo si fosse rabbuiato improvvisamente, ascoltandola. A cosa stava pensando? Non voleva augurare a sua sorella e al suo amico una simile felicità? Certo che no. In quel momento sarebbe stato impossibile, il contrasto tra il destino di sua sorella e il proprio avrebbe rabbuiato chiunque. Magari aveva pensato anche a me, a come aveva ostacolato la nostra unione, scegliendo di non aiutarci quando non remandoci contro. Eppure sentivo di poterlo assolvere ormai da quell'accusa di aver sospettato orribilmente di lui. D'altro canto, Sapevo che ci aveva fatto torto e anzi speravo che l'avesse fatto. Forse non aveva cercato di ostacolare il corso del nostro amore, opponendovisi direttamente, ma era rimasto a guardare impassibile le due correnti scorrere lungo la brulla desolazione della vita, senza far nulla per eliminare gli ostacoli che le tenevano divise, e coltivando la speranza che si prosciugassero prima di potersi unire in un fiume solo. Intanto aveva trovato anche il tempo di occuparsi dei suoi interessi e magari aveva avuto il cuore e la testa così presi dalla sua fanciulla da non pensare più agli altri. Di sicuro l'aveva conosciuta per la prima volta, quando meno a fondo, durante i 3 mesi in cui era stato a Grassdale, e infatti ricordavo che mi avesse accennato al fatto che sua zia e sua sorella avessero portato anche una giovane ospite. Questo era utile a spiegare almeno in parte il silenzio circa quanto era accaduto in quel periodo. E mi spiegavo anche tante altre cose, come ad esempio i suoi frequenti viaggi, di cui non mi aveva quasi mai raccontato nulla e di cui non sopportava di parlare al ritorno. Il suo cameriere sapeva il fatto suo quando affermava di avere un padrone tanto riservato. Mi domandavo comunque come mai avesse usato tanto riserbo anche con me. Forse per quella che era la sua natura, in fondo. E magari per rispetto nei confronti dei miei sentimenti, o per timore di turbare il mio filosofico contegno, toccando il tasto dell'amore.